illustratore, fumettista e cofondatore del collettivo Super Squalo Terrore, questa sera Paolo Gallina presenterà il graphic novel The Notorious Big, Il cielo è il limite, all'interno della rassegna organizzata da Millennium Bologna, Villa Tessuti Culturali a Villa Spada. Quindi io do il benvenuto sui 103.1 a Paolo Gallina. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Benvenuto. Quella di questa sera è una presentazione che mette d'accordo un po' tutti e tutte, perché è un lavoro, il graphic novel su Notorious Big, piace, diciamo così, sia agli amanti della musica, del rap e in generale della figura di Biggie, sia agli amanti del fumetto, giusto? Sì, è un po' un punto di unione, diciamo, fra due mondi che si guardano anche con interesse, però insomma restano comunque due mondi separati, che a me Antonio Salinas è piaciuto trovare un punto di incontro fra le due realtà. Antonio Salinas, che ha curato i testi mentre tu i disegni. Esatto, sì, Antonio è lo sceneggiatore, ha scritto di fatto il libro e i testi e io l'ho disegnato. Quindi come fumettista ti chiedo qual è il processo che porta alla realizzazione dei disegni che animano una graphic novel, e nello specifico come hai lavorato su questo personaggio a partire dai testi. Il processo che porta a realizzare i disegni di una graphic novel è quello di partire da, appunto, i testi e da una grande documentazione, perché in questo caso stiamo parlando di un fumetto biografico ambientato comunque nel passato, anche se recente, e che necessita della maggior accuratezza possibile per essere fedeli a quello che si sta raccontando. E quello che ho fatto io è cercare la maggior parte di fonti e di immagini dell'epoca, sia relative al mondo di Notorious e dell'hip hop di quegli anni, che la New York e l'America di quel tempo, insomma, che è importante cercare di rappresentare nella maniera più fedele possibile, anche se di qua dell'oceano. A partire da questi materiali, diciamo anche di fonti, come si approccia, diciamo, uno dei personaggi che ha segnato un po' tutta la storia della musica rap e hip hop di tutti i tempi? Allora l'approccio è, diciamo, di entusiasmo, perché ci si rapporta con un personaggio che comunque ha segnato la propria formazione culturale in qualche maniera, e dall'altra parte con la giusta dose di rispetto e di attenzione, insomma, perché comunque si sta raccontando di un qualcosa, di una storia vera, di una storia reale, e quindi e che oltretutto interessa ed è conosciuta da veramente molta gente, quindi la paura di sbagliare c'è sempre, e questo ti porta a cercare di fare le cose nella migliore maniera possibile. Quindi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, appunto, con Paolo Gallina, che ringrazio per questa chiacchierata, per la presentazione di The Notorious Big, Il cielo è il limite, il graphic novel di cui lui ha curato i disegni che danno vita poi alla storia, al Parco di Villa Spada. Quindi grazie mille Paolo e buona fortuna per questa sera. Grazie a voi, a questa sera.